libro che penso abbia avuto un grande successo anche editoriale è Giuseppe Maria, la nostra storia d'amore, autore Andrea Mardega dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, bellissimi, e poi edizioni Paolini. Dia a che punto siamo arrivati, eccetera. Ecco, noi siamo arrivati a metà del 13° capitolo che tratta della vita a Nazareth dopo il ritorno dall'Egitto, e noi abbiamo letto in questi due capitoli centrali del libro a Nazareth, sono più lunghi, quindi questo capitolo ha ben quattro, cioè due interventi di Giuseppe e due di Maria, no? Nella trasmissione precedente abbiamo letto i primi due, adesso leggiamo gli altri due. Siamo a pagina 127. In fondo, che si intitola Confidarmi con Maria mi aiutava tanto. Esattamente, ecco, benissimo. Allora, quindi è sempre Giuseppe che comincia le sue confidenze anche con noi in questo libro, e lui racconta un po' la sua vita interiore in quegli anni di Nazareth. Non sempre ero sereno a Nazareth. Le circostanze mi mettevano a volte in difficoltà. Tutti davano molta importanza ai figli, ritenuti il segno della benevolenza divina. Tutti pensavano, come diceva il Salmo 127, l'eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa è il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero, sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra. Effettivamente in quella cultura, come anche in tante altre culture, anche in modo sano e bello, c'era proprio questa gioia di avere molti figli, che peraltro erano anche appunto una garanzia poi di lavoro, di sostegno, di sicurezza per tutta la famiglia, di famiglia che poi si ampliava. Ecco, proprio nell'Antico Testamento c'è questa convinzione che è molto vera, che la benedizione di Dio si manifesta in gran parte attraverso le gravidanze per la donna, i figli per l'uomo, attraverso la vita che si diffonde, no? Con Maria facciamo fatica a non mostrare imbarazzo se i paesani dicevano che Gesù mi assomigliava tanto. I nostri silenzi sull'aspettativa di altri figli un po' li insospettivano. E ci chiedevano, rispondevamo, sia fatta la volontà del cielo. Cercavo di cambiare discorso se i miei coetanei facevano allusioni alla nostra intimità. Se sapessero non capirebbero, pensavo, no? Beh, potrebbero dire che non sono un uomo vero. A volte mi pesava la differenza tra ciò che gli altri pensavano e ciò che io ero. Mi colpiva notare che anche l'educazione ricevuta può renderci meno liberi di fronte ai disegni di Dio. Ma non potevo in alcun modo rompere quel segreto. Avrei tradito Dio e Maria. Avrei anticipato i tempi della persecuzione di mio figlio e rovinato i suoi piani. E avrebbe dovuto dire: questo figlio viene da Dio. Poi mi consolava a meditare come Dio avesse tenuto in serbo quel segreto sull'incarnazione di suo figlio per secoli e secoli. Mi consolava anche pensare che quel figlio, nella dimensione umana, avrebbe avuto proprio me, suo padre, come esempio, come forza. Ecco, per cui io in questo capitolo mi immagino queste difficoltà di Giuseppe interiori. In effetti, nella sua preghiera, pensare come Dio avesse tenuto in serbo quel segreto per tanti secoli, lo aiutava a tenerlo anche lui in serbo per qualche anno, per qualche decina d'anni. Mi aiutava tanto confidarmi con Maria. A lei potevo dire tutto. E lei riempiva di dolcezza e significato quel contrasto. Mi diceva: Giuseppe, non aver paura. Dio ti sta chiedendo fiducia donandotela. Ancora di più adesso, nella normalità di ogni giorno, che quando dovevamo andare a Betlemme o in Egitto, quando tutto sembrava impossibile. Ero un uomo giusto, ricordate che questo lo dice proprio il Vangelo di Matteo, era un uomo giusto, abituato sempre alla schiettezza, alla chiarezza, sì è sì e no è no. Mi pesava apparire coniuge quando ero solo sposa. Avevo la tentazione di sentirmi non sincero. Maria mi diceva che così, con la stessa prova che anche lei soffriva, potevo capirla meglio, essere unito a lei nel cuore. Condividere con lei questo martirio del silenzio, del segreto. Segreto di una cosa santa e buona, voluta da Dio, chiesta da Dio, ma che se fosse stata detta non sarebbe stata capita né umanamente né con il pensiero su Dio che allora si aveva. Avrebbero obiettato: questo vostro comportamento non può essere voluto da Dio, che ci ha detto di crescere e moltiplicarci. Il nostro popolo soffre per il tuo capriccio. Tu non vuoi dare al tuo popolo braccio di guerrieri, possibilità di nascita del Messia e chissà quante altre cose ancora. Avrebbero potuto dire: ti sei fatto mettere nel sacco da quella donna volitiva e sicura di sé, e ci di donna. Sei tu il capo, sei tu l'uomo, sei tu che devi decidere e lei deve obbedirti. Ti sei fatto ingannare. Vai a sapere di chi è figlio quel figlio. Ecco, quando faccio questo accenno, ho nella memoria una cosa che ha detto anche il Papa Francesco in una sua omelia. Vi ricordate quando Gesù è più grande nel Vangelo, no? E gli fanno questa obiezione, no? I farisei con cui lui discute, e gli dicono: noi non siamo figli di prostituzione. Ecco, il Papa fa accenno che nei primi secoli, lo dice in una somelia, e andando a studiare si vede che nei primi secoli si interpretava questo passo del Vangelo dicendo che c'era un po' una diceria, capite, no? Una diceria molto antipatica nei confronti di Gesù e quindi di Maria in questo senso, no? Allora io continuo, Giuseppe che si immagina le obiezioni dei suoi compaesani: ti sei fatto ingannare, vai a sapere di chi è figlio quel figlio, te l'ha detto un angelo nel sogno e tu ci credi, sei proprio un incapace. Mi sembrava di sentire gli sberleffi dei nazareni se lui gli avesse detto queste cose. Qualcosa di questo genere mi arrivava davvero, gli sguardi, le mormorazioni. Alcuni pensavano che Maria mi avesse irretito per renderla madre e costringermi a sposarla per sistemarsi, e si chiedevano silenziosamente che cosa avveniva nella nostra intimità, perché non avevamo più figli. Altre volte mi veniva la tentazione di pensarmi indegno di stare accanto a Maria. Ecco, interrompo un po' la lettura di questo brano perché capisco che io ho forse un po' sottolineato, no, queste possibili, immaginarie, no, difficoltà interiori di Giuseppe, ma penso che anche questa immaginazione mia possa aiutarci a sentire Giuseppe, oltre che Maria, molto più vicini a noi. Cioè anche loro hanno avuto tante prove, tante difficoltà, anche gli interiori io mi immagino queste, no? Interessantissimo. E sì, così noi possiamo anche rivolgerci a Giuseppe, che è il nostro patrono, ecco, patrono della Chiesa e della vita spirituale, insomma, anche per chiedergli aiuto per tante cose e anche per queste prove interiori, no? Che, certo. Santa Teresa diceva che quando si rivolgeva Santa Teresa d'Avila a Giuseppe otteneva tutte le grazie che gli chiedeva, no? E mi ricordo una volta in un incontro con degli studenti, San José Maria Escrivá, che anche era molto devoto di San Giuseppe, e lui diceva: no, ma ecco, voi chiedete a San Giuseppe tante grazie perché Gesù, come gli ha obbedito sulla terra, adesso anche in cielo gli obbedisce sempre, no? Ecco, poi torniamo al libro. E a volte mi veniva la tentazione di pensarmi indegno di stare accanto a Maria, lei così piena di Dio. Ma Maria mi tranquillizzava, mi dava pace, mi diceva che quei desideri erano del tutto normali, che anche lei li aveva, perché non c'era nulla di male nel desiderare di essere uniti come marito e moglie, di vivere una realtà bella e santa creata da Dio. Ecco, io questo accenno ho voluto farlo perché, sapendo e credendo noi che loro hanno vissuto un matrimonio virginale, questo non significa da parte di Dio che la realtà bella e santa dell'amore coniugale sia qualcosa di non bello, di non buono. I coniugi si santificano e anche trovano l'unione con Dio proprio nell'amarsi santamente e con molta anche gioia e passione, perché Ecco, mi ricordo sempre, mi torna a lei il ricordo di San José Maria Escrivá che parlando dell'amore dei coniugi diceva, quando è vissuto così con molta unione con Dio, ecco, il letto coniugale è come un altare per loro, no? È proprio il luogo dove offrono assieme questa gioia di volersi bene. Un giorno che mi vide assorto nei miei pensieri, si avvicinò e mi chiese: come posso aiutarti nei tuoi momenti di sconforto? Come posso starti accanto? Io la guardavo stupito e lei continuava: che cosa ti aspetti da me? Che cosa ti manca del mio amore? Lo senti, il mio amore? Dio ti chiede di rinunciare alla tua vita per mio figlio, per nostro figlio. Meravigliava come con le sue domande indovinasse e cambiasse il mio cuore. Sei disposto a essere giudicato male dagli altri a causa del mio figlio, di nostro figlio? A sentirti inadeguato per il mio amore e nonostante ciò a rimanere accanto a me? Sei disposto a vincere le paure per sostenere con me il nostro figlio nella sua prova? Ti chiedo questo non perché tu mi risponda, ma perché conservi nel cuore queste domande. Aveva indovinato ancora una volta. Sempre apro le virgolette pensando al dialogo di Maria con Giuseppe. Maria dice a Giuseppe: adesso dimmi solo che mi ami. Ho bisogno di sentirtelo dire ogni giorno, più volte al giorno. Quando dici che mi ami, lo stai dicendo anche a Gesù. Quando mi dici che mi ami, io ti passo il mio amore e quello di Gesù. Lui ti darà la forza, la libertà che ti dona, ti aiuta a perdere la vita per guadagnarla. E con queste parole di Maria, un po' mi fa piacere mettere sulle sue labbra, nel suo dialogo con Giuseppe, questo bisogno molto femminile, molto, che conosciamo essere così molto tipico delle donne, di desiderio di sentirsi dire spesso, no? Ti voglio bene, ti amo, anche se lo sanno, ma è come una cosa che non solo rassicura, ma proprio gli si fa molto piacere. E allora Maria, che è molto donna, pur essendo molto santa, piena di grazia, non perde nessun aspetto della sua fedelità, anche a lei fa piacere che le diciamo, che Giuseppe le dica, e anche che noi diciamo: ti voglio bene, ti amo. E poi questo aspetto, ecco, io a volte uso questo modo, no, di mettere sulle labbra di Maria o di Giuseppe qualche frase che poi noi conosciamo, che anche se in modo un po' diverso, Gesù poi dice nel suo Vangelo, no, questa perdere la vita per guadagnarla. No? Una mattina Maria mi disse: vieni a vedere le mie rose. Nel giardino c'era un profumo meraviglioso, colori stupendi. Lei prese il secchio pieno d'acqua e mi invitò a seguirla. Ci chinammo verso una rosa magnifica, grande, aperta. Accanto aveva un piccolo bocciolo bianco. Maria mi prese il viso con tutte e due le mani e mi disse: dà al tuo amore il nome che ha. Il tuo amore rende belle le persone che ami perché è puro. Dio guarda il bocciolo che è in te, non le erbacce che possono circondarlo, i pensieri, le preoccupazioni. Nel tempo hai perso la consapevolezza della bellezza del tuo amore. Ecco, io immagino appunto che anche Maria e Giuseppe, cioè, in questo caso sto pensando a Giuseppe, hanno avuto, come dire, il bisogno che tutti noi abbiamo di rinnovare appunto la bellezza del loro amore, la bellezza della loro vocazione nella quotidianità dei giorni un po' più uguali, no? Della loro vita a Nazareth. Il dono di mio figlio per te è che tu senta tutta la sua capacità di amare, è lui che te la ridona oggi. Io penso che Maria anche con tutti noi ci aiuti a riscoprire, perché è il rifugio dei peccatori, ma a volte il peccato è qualcosa che in noi ci dà una visione negativa di noi stessi, una visione negativa anche della nostra capacità di amare. Invece Maria ci dice che noi siamo capaci di amare, così come faceva con Giuseppe, lo fa anche con noi, e penso che anche questa sia una bellissima azione che anche tutte le donne sposate possono fare con il loro marito, e il loro marito è anche viceversa, cioè i coniugi si aiutano a riscoprire la bellezza di ciò che sono, delle loro capacità, cioè una parte importante dell'amore dei coniugi e degli sposi è quello di appunto di rassicurarsi e di darsi coraggio e di darsi visione positiva sul proprio sposo, sulla propria sposa. Le risposi, Giuseppe gli dice a Maria: mi hai saputo amare nel tempo come nessun altro avrebbe saputo fare. Il tuo cuore ha abbracciato il mio e il mio continua ad abbracciare il tuo. per me è tempo di crescere nell'amore. Nell'amore si cresce sempre. La mia mano non ti lascerà mai e so che tu non lascerai la mia. E Maria risponde: Giuseppe, il nostro cammino è appena cominciato, ti regalo il mio amore, so che per te, so che non è facile per te essere qui con me. Attendi e spera. Ci saranno consolazioni per il tuo cuore. Ci sarà un tempo per gioire. Il profumo di questo giardino te lo ricorderai per sempre. Maria leggeva il mio timore nel cuore, leggeva il mio bisogno di scappare e mi aiutava con i suoi abbracci. Per me lei è stata l'angelo dell'annunciazione ogni giorno. Ecco, e a questo punto, anche se in questo, come avete visto in questo brano, Maria e Giuseppe anche dialogano molto, però a questo punto comincia proprio il testo della confidenza di Maria, che io ho intitolato così: Giuseppe lo prendeva con sé e lavoravano insieme. E Maria ci dice: come accade spesso anche nella nostra famiglia, la presenza di un figlio piccolo era fonte di gioia, di semplificazione delle nostre complicazioni da adulti, un invito a essere come un bambino, a diventare come lui. Ecco, questa è una considerazione che io faccio tutte le volte che mi capita, che so, di essere invitato in una famiglia, per esempio anche i miei stessi fratelli o adesso nipoti che hanno bambini piccoli, o amici, nelle famiglie amiche, mi rendo conto, ecco, che la presenza di un bambino ha questo potere straordinario, appunto, di semplificare, no, le complicazioni a volte interiori degli adulti, no? Di ritornare a farci anche sorridere, a dimenticarci dei problemi, per pensare al problema del bambino, ma questo è anche una grandissima provvidenza del Signore che ci dona attraverso così la vita che nasce, no? Bello, molto bello. Questa esperienza io l'ho fatta 3 volte. Quando nacque mia sorella, che ha 10 anni meno di me, quando nacquero i 2 nipoti, esattamente, che io avevo 37 anni e 43 anni, che però ho fatto il babysitter ad entrambi. Ecco, effettivamente è un'esperienza comune anche di noi preti, ma è anche un dono che il Signore ci dà, no? Nelle famiglie dei parenti e degli amici. E nei suoi occhi, ecco, Gesù dice Maria, ne parlerà tanto nella sua vita adulta, il valore dei bambini. Nei suoi occhi, tra l'altro teniamo presente che gli esperti, esegeti e storici dicono che allora, in quella cultura, ecco, è vero che era molto importante la nascita dei bambini, però allo stesso tempo il bambino non era molto considerato. Per questo Gesù fa un'opera veramente grandiosa di dare molta importanza ai bambini. Nei suoi occhi potevamo vedere la gioia di essere al mondo, la gratitudine di essere amato, la passione per la natura, per il suo corpo, per ogni ingegnosità del lavoro degli uomini. Questa è un'esperienza che facciamo un po' con tutti i bambini, no? che nascono e che crescono, e io mi immagino che il Dio incarnato vive queste cose, ecco, con una grande pienezza di umanità. Lo osservavo crescere e diventare forte, imparare tante cose, sfruttare le sorgenti cariche d'acqua, i monti e le colline, le zolle dei campi, gli alberi di fichi, il grano, i calci delle viti, gli uccelli e le nubi del cielo, e poi lo guardavo giocare con una fantasia straordinaria e fare scherzi agli amici e anche a noi. Anche queste parole di Maria, io appunto faccio intravedere quelle che poi sono anche alcune immagini bellissime che Gesù dice nel Vangelo, no? Mi emozionavo a insegnargli i salmi che conoscevo a memoria e ad ascoltarlo mentre pregava. Giuseppe lasciava fare a me e io sceglievo quelli che mi sembravano più adatti a lui bambino. Evitavo quelli troppo forti e quelli in cui si chiede perdono a Dio dei peccati. Mi riempivo di dolcezza nel guardare le sue labbra pronunciare insieme a me queste parole. A questo punto io cito alcuni salmi che mi immagino che poteva, ecco, Maria aver scelto per pregare insieme al suo figlio Gesù. E lì mi ha detto il salmo secondo, che è proprio quello cristologico messianico, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. O queste, cito qualche passo del Salmo ottavo. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero lo hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Sono salmi che noi conosciamo bene, che recitiamo nella liturgia. Ecco, immaginarsi che stanno così, ecco, nella bocca di Maria con presente Gesù, e ce li può fare legge in un modo con loro immobile. A Gesù bambino piacevano tutti i salmi che sceglievo per lui, ma in particolare ricordo alcune parole che gli illuminavano lo sguardo. Queste è il salmo del Signore, il Signore è il mio pastore, il Salmo 23. 22, il Signore è il mio pastore. 22-23. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce e rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. E anche queste altre, Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. E ancora, o Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te la mia anima, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Mi accorgevo di avere un privilegio unico nel pregare così. Chiamavo Giuseppe e pregavamo insieme, tutti e tre, con una gioia ineffabile. Poi andavamo al lavoro. Qui c'è anche un acquerello che... Bello, bellissimo. Immagina Maria che legge la Bibbia con Giuseppe, no? Ecco, anche se è una immagine così della Bibbia come ce l'abbiamo noi a forma di libro, ma Giuseppe aveva anche il compito di insegnargli la legge, no? Una volta avevamo da poco recitato insieme la preghiera dello Shema all'inizio del giorno, con quelle parole della legge, perché anche in famiglia si recitava ogni giorno. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti glorificherai e quando ti alzerai. Era poco prima del nostro viaggio a Gerusalemme, andarono insieme nella bottega e sentii che Gesù, dodicenne, chiedeva a Giuseppe: Abba, mi spieghi che cos'è l'amore? Bello, bello, bello, troppo bello. Grazie, Don Andrea. Allora, questa è stata la puntata numero 15. Sì, la prossima proprio... volta, allora, iniziamo un altro capitolo importante che dividerai ancora in due parti, sì. Che si intitola Tutti gli anni a Gerusalemme per la Pasqua. D'accordo, dacci una bella benedizione, Don Andrea. Ecco, la benedizione per intercessione di Maria e di Giuseppe, la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su voi e tutti, su te e sulla Radio Maria, su tutti gli ascoltatori, sulle vostre famiglie, su tutte le vostre intenzioni di preghiera. E grazie infinite, amen. E ripetiamo agli ascoltatori che questa missione viene registrata, per cui si può scaricare e risentire quando si vuole nella giornata. Grazie Don Andrea, a presto. Grazie. Pronto Giovanni? Sì, pronto Dottina, buonasera.